Lecca, niente, ce ne sono altri, se ce ne sono altri pazienza. Scusatemi ma io non me li ricordo tutti. Dì la verità che stai mangiando, c'è un cervello occupato. Yeah. Mi fa facendo il lavoro da sole, si fa vicino a essere in macchina e sta senza bussi, io ho avuto un meccanico senza Eva. Guarda, domani cucini, si finisce la pareggia prima. No, ma chi sono che si è annullato un meccanico? Tutto il meccanico si è bruciato, il meccanico si è bruciato. E come faccio a bruciare il meccanico se ce l'ha qua dentro? E c'è l'acqua bisogna mettere, c'è il no, vedi un po' tu. Non credo che non lo sapessi che ci vuole essere l'acqua. Non lo sapevo, perché io poi sono salito e ho visto anche il tegamino, Mario. Le nuove prove, sono lunghe di quello che ho visto. Luca! Gappa, gappa. Tu hai sentito i viaggetti, così? No, io ho sentito Mario, ora mi conto. Non vedo me. Facevo la sera poi, prima di andare al lavoro, andavo da una all'altra a fare il caffè. Grazie a te. Noi andavamo un po' su turismo qui, capito? Pensavo che stai parlando di... Sono come Mose. Di noi. Mose. No, io ho fatto in campagna mia, no. Voi l'ho visto la quarta parte con papà, ma non è ancora l'ombra. Forse è qua vicino, è il mio vicino. Vabbè, io voglio vicino con più male sempre. Beh, qua c'è salata, cavo e blu, qualcosa presto. Ma non lo so. Cavo di questo. Ma tu già non le metti più il 5, è solo il 4. No, il 4. Il 5 è su, a casa di mamma. Ah, già andava allora. Tu mi sei un buon, io mi sento un buon credo. fa, circa 6 anni fa le mangiavo, ma no, uno, due no. A Palesi, specialmente io sono di Sanì, sono presi da quello con i cuoricotti dell'orangio, ma la vita era. Mario, comunque da me no, quindi mangio quelle fresche e basta, ma non assai però, eh. Vabbè, purtroppo Mario, per la cosa non ti piace, non le mangi, per esempio, cose che non mangi, ti sentiamo. Io me lo mangio tutto. Roba nostra, quello che non ho mai mangiato sono le rane, perché ancora non sono andato a Milano nel posto giusto per mangiare le rane, perché a Milano ci sono andato ma abbiamo mangiato tanto a parte, così che rane non ce n'era, se no magari gli avrei chiesto per assaggiarle, poi magari mi vado di Cillucci, è tutto da vedere. E magari va bene il fumuro, beh. Perché hai tanto, anche se non male, è rane. Dai, fai due a tutto. Dico che è due, anch'io. Ma che cazzo hai fatto tu? Non ho mangiato le rane e neanche il collo. Il busto di quelli muoversi. Bocca. Grazie Mario. Quello non credo che sia omologato, comunque sto dicendo la bella bestia, per quel prezzo è regalato. Ma niente, ma questo è un apparecchio matto, con le bande, omologato, è impossibile. Ma visto che le bande laterali non c'entrano niente, guardate che c'ha i 40 canali, che c'entra i 40 canali. Io dico di bande, non bande laterali, bande significa banda A, banda B, banda C, banda D, banda A, banda E, banda B, banda A e banda F. Poi sicuramente avrà più un doppio anche. Poi non lo so, io so che di bande ne vuoi avere tutti i biasi, l'importante è che si entra con la frequenza lì, e nei 40 canali e che non c'è più di 5 watt. Almeno. È così, altro ciao, ben sentito. Ciao, ben sentiti a tutti. E me? Poi non ho fatto un bello, ma te bande ha? Sì, 5. Ma c'è una da 5, una da 6. Ma praticamente quello è un sposto musale, giusto? Mi sa come che non è una fatica monodazzo, lo punto è basta. Saturn Echo Turbo. Lafayette, non mi ricordo come lo chiamava, era grigio invece di essere nero. Qua ha fatto tante cause. A me piace, non me l'ha parato, cioè qualcuno lo critica, però secondo me per quel prezzo che lo stanno prendendo loro è regalato. Beh, non è tanto, se consideri comunque che con 100 euro in più, con 50, 100 euro in più ti prendi un HF, ma l'HF non si può utilizzare, magari anche quello. Ma no, ma non lo prende nuovo, loro li voteranno nuovo con l'MP5 che costa 75 euro sul microfono qua. Sì, non lo metto in dubbio, ma c'è però parecchio così, cioè è tutto buccia, all'interno qui c'è poca roba. Il fatto che è uguale al brutto, che è un portatile, è una stazione portatile, e ci hanno messo un cassone grande grande dentro per farci stare un giocattolino dentro, però nonostante tutto è completo. Sì, non lo metto in dubbio, il del brutto c'è solo l'eco e basta, perché il brutto è uguale, lì si contra schiena dentro, uguale, il più del tutto c'ha l'eco e ci vuole l'alimentatore suo dentro lì, però l'hanno fatto troppo esagerato, troppo grande, c'è solo da dentro. Ma anche il bico c'ha il tuo flusso? Sì, sì, il mio flusso mi guarda, c'ha anche il bico. Una notte soltanto o ce ne sono altre? No, solo una notte. Io precisamente che ho cambiato soltanto la camera a letto, che poi non è neanche ecco, così la specie di riverbero, e cos'è? No, sono una specie di riverbero, non è proprio una camera a letto, è una sorta di riverbero, tipo quello che mettono in karaoke, come sono stati lì. Qua gatto. Di lusso, dai, c'è una bella postazione. Adesso dica, ho fatto il dress. Buonasera. Buonasera, chi è? Io. Sei io chi? Io conosco l'asino. Io? Dire un attimo, faccio io. Sono così in meno. Non si cazzia, ma te la faccio funzionare. Sì, il telefono sì, è la chiesa fino a poco fa, ma si è caricato la batteria e non ne ho caricato la batteria. Si è caricato prima un 1, ho tolto la sola 1 e l'ho messo nell'altro perché ieri notte sono andato a fare e mi sono iniziato a rimettere in carica. Adesso ce l'ho sui due spenti. Io sono provato stamattina a chiamarti, ma proprio brutto, casa tua. Tu adesso non vedi che sei a casa tua? Io sono a casa. E l'apparecchio lì ce l'hai? Minimo. E allora dai, sto salendo e me lo porto via. D'accordo. Ascolta, io non mi ricordo bene però, mi ricordo il garage, mi fermo lì. Va bene. Ascolta, fai due punti di tromba. Ma guardami, io adesso, come ti dico che sto andando, io sono all'Alba Graziella. Fai il conto, ci faccio 5 minuti e sono lì. Cappa, va bene, dai, questo... Ok, allora mi sono ascendo, adesso ti giù. Mi sono fatto Franco, ciao Franco, ti chiedo di quelli lì. Luca, ci vediamo tra un po', ciao. Vado a casa, so, non c'è problema, ciao. Capita, però ci andiamo a stare. Perché tu? Anche fate schifo, quanto figlio a fate schifo, amato un po'. Allora c'è troppo vicino al microfono. No, sono lontano, ma non so mai chi viene qua, Luca, capito? E quindi non so, sto giostrando solo con la protesta del microfono e basta. Ti dà effetto baratto, lo vedi, se non ti bene. Ma questa parte non va bene, non va più per me. Ma considera che sono neanche a metà microfono. Quindi va bene, come ne siamo? Troppo compresso, vero? Va bene, va. E scappa. E mai che mi sei andato, male Mario, Mario Avanza. Ciao Mario, faccio un attimino di QRT che vado ad aspettare un attimo in giù. Ciao, a dopo. A dopo. Io. Stiamo uscendo a cosa? A tratti? Come a tratti? Quindi va bene, 1, 2, 3. Adesso perfetto, poco fa eri tutto, però tu non si capiva niente. Mario, stai strappando di brutto. Non lo so. Non lo saccio. Va bene, là. Io adesso sono Roberto. Le 2:15, ma non è che c'è le batterie scariche, no? Come alzi troppo non ce la fanno alimentare il microfono. Non lo so, così va meglio. Ah, dappa, sì. Va bene, sono contento. E allora 10 minuti ce li abbiamo ancora, vabbè. No, alle 2:30 parto, da quando passi tu al lavoro parto anch'io. No, oggi non ci sono andato, sono andato da ieri, sto male da ieri, io, Mario. Ma non ci sono andato al lavoro? Ah, Angelo si chiamava. Oh, via, poveri di noi. Ma se tutto va bene siamo rovinati, non ci pensare. La parola è andata a tornare, ci sono un giorno e domani sono tornato a capo, io stavo malissimo, ma domani non dico che sono arrivato ai vomiti, ma quasi. Pagata, certo, questa influenza è un po' brutta, vabbè, cosa ci vuoi fare? Bisogna avere pazienza, io pure sono un po' raffreddato, però purtroppo, se non lavoro io qui non lavora nessuno, Se vendai ne mangi, se non vendai ciccia. Vabbè, siamo due cose diverse, io già mi posso arrangiare, però cavolo, è inutile che ci dovrà fare e domani sono nuovo a capo. Ma non devi lavorare allora? Come tu? Non devi lavorare allora? No, ieri sono salito ieri alle 5 e stavo troppo male, ero tutto a fumo, lo dico, non ho vomitato ma ero quasi, non ho mangiato niente tutto il giorno, ieri mi ho mangiato un panino in tutta la vita. Ah, ma te non ci vai? No, mi rimango qua, se ti sto dicendo sono male, adesso sto un po' meglio, ma quando stai male che sei nauseato, con la febbre e tutto, cosa andrà a fare? Lì, ci sono scelte d'acqua. E così mi piace a me, più bello, perché arrivi con le ruote giusto quel tanto lì, poi stimoli la barca da dire in acqua. Certo, è così, però è pesante a salirla la barca, scendola è un secondo, se non se c'è il basculante fai in fretta, però se c'è il basculante è un po' pesantuccia. Perché? Perché è quasi piatto lo scivolo, cioè presente una piattaforma e poi tutto un tratto c'è il mare dentro, si va dentro. E rimane un bel grinato la barca dopo quando la devi salire. Ah, zappa zappa, ho capito. No, io pensavo che era come quello di Porto Torres, però più ripido, cioè scendere di più e diciamo così, quando tu hai fatto un metro, sei già un metro d'acqua, capito? No, non è così, no, l'acqua è bassa bassa, però di colpo c'è il granone, ci sono 4 metri, 5 metri di acqua. Ecco, pagate, allora è sbagliato completamente, perché è cosa ideale per mettere la barca a bagno e scendere tipo quello di Porto Torres, però arrivato a un certo punto dovrebbe esserci il galone come stai dicendo tu, però dovrebbe essere molto ripido spesso dove metti la barca, capito? In modo che come la metti in acqua sta già galleggiando, poi quando arrivi col carrello e si mette sulla barca, perlomeno dovrebbe essere così. Fa come la laghiera è così, ma la Castelsardo è subito profonda l'acqua, e in un attimo cioè c'è un granone da 30 cm, 40 cm diventa 4 metri. Gappa. E allora così è un po' brutto, hanno sbagliato in pieno, perché lì secondo me devono fare da zero, quanto è la campata dal coso, per dire 3 metri. Prima del granone deve essere almeno un metro d'acqua là, capito? Prima del granone. Ma l'hanno fatto pure, lo sai per quale motivo? Perché c'è la gru di lì, che per scendere le barche grandi, l'hanno fatta per quel motivo lì, per non rimanere le barche a muglio, cioè i carrelli completamente a bagno in acqua. Gappa. No, dai. È tutto da vedere, da fare un giro, boh. È vero. E tu, la tua barca dove ce l'hai? In officina? No, ce l'ho in porto io, la volevo salire, normalmente in questo periodo la salgo, la tengo un paio di mesi in secca, 3 mesi, per fare tutti i lavori e poi la riscendo, ma l'ho scesa a giugno dell'anno scorso, è ancora giù, adesso devo andare a metterla in moto, burro, sono un paio di settimane, non ci vado. Ecco, pagata, sarà tutto quanto pieno di cose lì, quelle cose che si attaccano alla barca. I denti di cane, sarà il costo di Sarania, va, ti sto dicendo, l'ultima volta l'ho usata era... E pare novembre. Gappa, ma lì basta poco, basta un mese e si piega tutta di cane, per carità. Porto Torres, penso che come Porto Torres non mi viene di loghi. L'alghero è pesante, ma Porto Torres in una settimana c'ha già le alghe attaccate con la melva verde. In un mese ho bisogno di denti di cane. Ma come ha fatto, Cristian? Di qualunque tipo, garantito, eccetera, eccetera. Dopo un mese si fa attacca a tutto. Purtroppo c'ha quella ficcaccia lì, un mese, al massimo due, toma la bui, si riscio. Ho detto una cosa, dopo 2 settimane la coccanaglia c'ha la velocità, c'ha la rondellina alla velocità, non so se lo sai, se la conosci. Dopo 2 settimane i denti di cane vanno a finire in mezzo alla rondellina, questa specie di ricchetta, e si mette la bocca, talmente sono in fretta. Gappa. Beh, sempre così. No, io no, ho pigliato quella lì perché me la posso portare dove voglio, per dire se c'è mare cattivo e me ne voglio andare al Alghero, me ne vado al Alghero, non c'è stato nessun problema, solo che a viaggiare con questa barca grande è un casino. Ma non ti è mai stato detto che è più gommone, è molto più maneggevole, più sicuro, più leggero. Oh, la barca è più tranquilla, più bella. Dipende da cosa devi fare, il gommone è l'unico problema per i buchi, perché ti si può bucare eccetera eccetera, però il gommone è più colmare, a parità di misura è molto più sicuro. È uguale, vabbè, uguale. Se ti deve succedere qualcosa, se pensi a quello, se ti deve succedere qualcosa, ti succede in ogni caso, No, vabbè, la flessione se devi rientrare a remi, devi attaccare a remi, vari, è più facile, con la barca delle mare arriva. E capo, ma appena che avrò possibilità me lo comprerò un piccolo motorino ausiliario. Ci vuole, se uno si allontana ci vuole, sempre meglio averlo. Io dico sempre meglio andare tranquilli e se possibile in compagnia. Capo, di positivo, no, ma poi io me l'ho pigliata più che altro per pescare, capito? No? Per portare mio figlio, vi? Non per altro, no? Non per lusso, ecco. Ma pensa che si tratta di per lusso, è solo per divertimento, mica è cosa, anche la barca che va giù, l'ho presa un'occasione, era lampada in un cantiere, mica l'ho pagata tanto. Ho dato via un motore, ho versato il motore che avevo, il gommone, da lì ho aggiunto qualcosa e me la sono presa. No, io la prima che avevo l'avevo pagata 2 milioni, poi quando me l'hanno rubata e me l'hanno rotta e via dicendo, l'ho regalata, c'era questo qui che ha detto che se la metteva a posto, che poi non è che era sfondata, ma avevano rotto il coso dove c'era cacciata la timoneria, il coso delle barche, e niente. Dopodiché mi è capitata l'occasione e questo qui ha voluto 1 milione e mi ha dato solo la carcassa della barca senza niente. Ha fatto staffolone, è stato tutto da un canottino piccolino piccolino, poi da quello sono passato a un altro eccetera eccetera, alla fine sono arrivata la barca. Ma no, poi io questa qui diciamo che era un affare, solamente che per quanto appare sia, ci sono da fare un bel lavoretti, capito? Vorrebbe dare una pezzata di vernice, ci vuole quella guarnizione, anzi, quando ti capita. Tu immaginati una V, piatto sotto, dove appoggia il coso della barca, e su dove fa la salita, il canale in mezzo, dove mettere il vetro, hai capito? No, non tocca, ma sta parlando dei paraburdi, quelli tutto in giro, quello nero in gomma o di cosa? No, è tutto nero in gomma, però è dove metti il vetro dello scafo, qui. Dove metti il vetro dello scafo? Non ti so, di cosa stai parlando? Vuoi mandare il parabrezza o di cosa? Il parabrezza. Beh, cosa c'è? Non ho capito, ti manca che cosa? E se vuole la guarnizione nuova, quella che c'è si sta sfarinando. Beh, non si può adattare qualche guarnizione di qualche finestra, roba del genere, o la incastro? No, quelle delle finestre adesso le stanno facendo a striscioline, non vanno bene. Ci vorrebbe per andare bene, tu immaginati le vecchie guarnizioni che avevano le macchine un tempo, che lo incastro nel vetro e poi appoggia, capite? Solamente che la macchina c'è anche il coso per il lato interno della carrozzeria, invece lì nella barca no, nella barca se sotto finisce in piano, dove appoggia sullo scafo là. No, bisogna trovare quelle guarnizioni a metraggio, quelle che usano per i veicoli industriali, per i camion eccetera eccetera. Non lo so, bisogna che ti facciamo una specie di disegnino quando ti trovo là, perché magari tu giri un poco, vedi, entri nei negozi magari e vedi qualcosa e poi vorrebbe dato la vernicatina. Con la vernicatina io non è che sia molto d'accordo, perché la vernicatina non si fa come deve essere fatta, se no c'è una gagliata per essere via tutto. No, perché diciamo che i fianchi sono a posto, cioè tutta la parte di sotto è a posto, capito? E sopra dove metti i piedi è leggermente screpolata, cioè c'ha le rigature lì. Ma tu mi domani rispondo al telefono, scusa. 1, 2, 3. I brividi, ma avevo un freddo, mamma mia. qua mi sono combattuto io. Quello è compagno da bacio allora. Non si dicono. Però cazzo, la cosa brutta è che ero debole per quell'altro affare. Poi sono sceso in officina, stavo bene, lunedì e martedì stavo meglio. Là. Mercoledì, cioè martedì notte sono andato all'allenamento, era un freddo da muri, e mercoledì ieri stavo malissimo, infatti ho resistito tutta la mattina, la sera ho detto boh, me ne sangue non vediamo su più. Oggi sto molto meglio, però non me la sono sentita di rischiare, se no siamo di nuovo da capo. No, ma poi come c'è il fatto che la ricaduta è peggiore della febbre normale. E poi non ce l'ha. Ieri ce l'avevo la febbre. Il problema è che cazzo devo uscire fuori, in officina siamo sempre all'aria aperta, diciamo al freddo sono abituato. Ieri è venuto un tipo, dice vieni che andiamo a vedere la macchina, mi ha portato su a pulizia d'alta, aveva un freddo in chi vedi lì e ancora meglio. Sei a uso, ma ti prego. Ciao già, ciao Robè, tutto bene, sì? Già lì, e te, niente? No, no, ancora no. Che apparato grande, quello, il Galaxy, di cosa stai parlando? Quello, tutto quello. Ma capo, quello che sta prendendo Gianni proprio, stiamo parlando. Ehi, aua! No, a me mi è sempre piaciuto, me. Diciamo, poi è capitata questa occasione di questo che ho detto, questo fatto, che mi ha fatto prendere Claudio, ne sono soddisfattissimo, però manca qualcosina rispetto al Galaxy, dai. Io, è meglio non disturbare, tutto lì. No, non c'è problema, a parte me non ti preoccupare, non ci sono problemi. Quando volete, ma di chi stai parlando? Siccome avete parlato in due, non ho capito bene, di Manolo? Roger o Robert, sì, quello, sì. Ci volevamo portare a vedere quella palazzo, visto che anche a te piace, sicuramente piace anche molto a me, mi è sempre piaciuto, a Gianni mi è piaciuto, dunque, tutto lì. Ma Gianni, ma poco fa era una battuta quando ha detto ne avete preso 10 o solo 2 ne avete preso? Certo, questo è l'apparato, mi serva di quella linea. quello Superstar col 4007, non ce li ha quella parata lì? Ah, sì, quella mia americana, ha detto che li ha preso un po' di anticipazione, che li abbiamo venuti fino allo show. Però maestro, ne ho 20, e se di voi prendete quei due ne rimangono 18 da vendere, capito? Poi li ha presi tutti da lì. Sì, ma considerando quanto lo vendono adesso, tu adesso lo paghi 240-250 euro usato? I posti lo prendono con questo mio. Io 250 euro, allora quando superavo le 200 euro non la buffo. Gappa, gappa, però dico, te lo vendevano usato, qua stai parlando di un apparato nuovo con garanzia e in più con un microfono che costa da solo 67 euro. Vabbè, ma da dove vuoi pulire, impara noi. No, guarda, assolutamente no, no, non l'ho detto per quel motivo lì, anzi, sono contentissimo, se lo prenderai tu, sono convinto che è una cosa spettacolare e sarà motivo in più per prenderlo anche io. Però dico, come fanno a fare questi prezzi, mi pare un po' gusti? Vabbè, nella quantità che tu sei in mezzo a queste cose, io sono venuto dal commercio, forse non so più bene di te. Allora, come tu prendi la cosa in quantità, si fanno degli sconti. In più, per dire, ne prendi 10 pezzi o 20 pezzi e uno te lo dà in omaggio, capito? Da lì lui riesce a realizzare quello che potrebbe realizzare un altro per il 9-2. No, sicuramente il guadagno su ci sarà, però dico, c'è tutto un giro strano di questi che li vendono in seconda mano, che cazzo ti sparano delle cifre assurde e tu riesci a beccarlo. Non lo so, anche per altre cose è capitato, per dire la Mantova, l'hai vista l'antenna che c'ho io, di vicino te la vendono a un prezzo, poi la paghi a un altro prezzo e in questo prezzo che me l'hanno dato a me c'era anche il guadagno loro. Hai visto, te l'hai dato da solo questa cosa, te la stavo per dare io. No, che oggi maledico che non si sa se arrivano questo e quell'altro. Boh, non dico più nulla, ma non ne voglio più sapere. Se arrivo, arriva, se no pazienza, saranno persi 200 euro. Sono sudati, ecco, che sono sacrificati, però pazienza, cosa devi fare? No, non l'ho detto per crearti dei problemi, assolutamente, anzi, quando arriva sarò il primo a complimentarmi, non ti preoccupare di niente, perché sono contentissimo quando arriva. No, ma io te lo faccio vedere, l'apparato, cosa hai capito? K. Avanti, sì. Ok, già. Vabbè, già arrivo, per lei già arrivo, ci vuole un po' di pazienza, chiaramente, perché non è che state quando dalle dietro, no? Evidentemente i rubini l'hanno fatto guardare, non lo so, un grosso ordine, quindi e hanno dei prezzi molto bassi, allora si accontenta di vendere e guadagnare nella quantità, capito? Fanno uno stoccaggio e via di questi apparati, anche perché sono apparati ormai che sono fuori produzione da tanti anni, evidentemente che li costruiva, ce l'aveva in magazzino e li ha venduti a basso prezzo e lui se ne libera lo stesso a basso prezzo. E io ne avevo tirato due negli anni passati. Due amici e allora uno costava quello a 240 canali mi sembra, no 221 canali, quello costava allora 649 mila lire, mentre invece poi quando ho ordinato sempre per un amico, non per me, quello a 271 canali, quello costava 745 mila lire. Però poi è aumentato ancora, è arrivato alla soglia del milione e costavano, vabbè, costavano abbastanza. Non lo metto in dubbio, considerando che hanno un frequenzimetro da solo, almeno che lo preparare lo paghi 40-50 euro, più c'ha tutte le altre cose, c'è il cassone, diciamo, il contenitore, gli strumenti, l'ecco, tante cose sommate, ce n'è di valore. Sì, certo, infatti, no, è completo, come parte è completo, io non so se tu hai avuto modo di vedere, ad esempio, il Galaxy Pluto, è lo stesso apparato, però con la versione mobile praticamente, con l'alimentatore incorporato. Però la scheda è quella, le caratteristiche, la potenza, i canali anche, insomma è tutto uguale per quanto riguarda la trasmissione, eccetera, frequentimetro, il numero di canali, solo che in più quello là ha l'alimentatore incorporato con l'altoparlante sul frontale e poi i due strumenti grandi di cui uno fa da rosmetro e wattmetro, tutto lì, capito? È bello, a me piace, la verità, piace moltissimo. Anche il wattmetro, cioè non è solo il wattmetro, ma anche il l'eco, insomma ci sono diverse cose, e poi va anche mandare laterale chiaramente, no? 271 canali, di cui il 21 mi sembra, 25, adesso non mi ricordo bene, che sono i canali alfa, capito? Perché praticamente sono i canali intermedi, capito Robe? Poi mi ha detto, ma non mi ha detto che la potenza è regolabile da zero al massimo. Sì, si regola anche la potenza, dovrebbe andare 10 in AM massimo e 21 in banda laterale. Sì, è così. Sì, quello infatti è utile anche per quello. Se uno vuole usare, ad esempio, un alimentatore lineare, puoi dare il watt in ingresso giusti per l'alimentatore, in modo che tu non trappi con la radio, capito? Allora, quello è importantissimo, quando c'hai i lineari che ci vuole l'ingresso basso o magari qualche altro che ce ne vuole un po' più alto, li regoli la potenza d'ingresso e non crei problemi a lineare. Infatti è stato fatto anche per quel motivo lì. Perché l'avevamo capito che eravamo vischiusi in aria noi, capito? Volevamo potenze quasi assurde, anzi diciamo assurde per quello che è l'HB, però l'hanno fatto e la gente ha anche comprato. E così è già, comunque c'è già che sta veramente già. Ma a me piace la gara un bel, no adesso, solo che non ho avuto mai l'occasione di trovare, cioè non ho trovato quello di Stefano che ha venduto a coso, a Manolo, però era un po' incerto, sapendo perché la fotografia, capito? Sapendo, non conosco come del tutto. E mentre io cercavo di trovare la chiarezza, questa mia incertezza, Manolo ce l'ha comprato. Sì, e poi l'hai visto con te da nuovo, non c'era un graffio, è tutto perfetto, infatti è tutto quello che hai numerato tu, hai capito che ha preso, proprio quello, grande, eh? Ma sto facendo uguale con il Manolo, Giulio. Come lo vedo, non ho capito bene. Il Manolo sono identici come apparati, i due che c'ha. Sì, sì, sono identici. Uno l'avevo comprato da un amico, che è uno di quelli che avevo ordinato io qualche anno fa. Nuovo, non ci sono dubbi, come quello che hai visto tu stesso, mio Gianni, senza un graffio, niente. E il secondo è appunto quello che ha detto Gianni, l'ha comprato da un passato amico. Dunque, lui, siccome aveva, diciamo così, non voleva scombinare il rack che ha a casa, no? Perché ha tutta la stazione messa in un mobiletto, praticamente si è fatto un rack, capito? E quello che me lo fa fare a me tutte le volte a spostarlo, mentre invece me ne compro un altro e lo uso dall'altra parte della casa, capito? Ma qual è c'è? Quello con gli interruttori a levetta o quello con gli interruttori rotativi? Ci sono gli interruttori a levetta e anche le rotativi ci sono. Sulla sinistra di alle levetta, e rotativi a destra. E che ce ne sono due tipi che sembrano uguali e li vedi e sono un po' diversi. Cambia anche il colore del frequenzimetro, perché uno ce l'ha quello arancione e l'altro ce l'ha rosso. Forse è quell'altro tipo che è simile al Galaxy, allora quello lì dovrebbe essere il Petrus. Io ce l'ho avuto quello tanti anni fa. È lo stesso apparato, solo che mi ricordo che era di marca, anziché si chiamasse Galaxy, si chiamava Petrus, capito oro? Ma io sto parlando dello stesso apparato Galaxy Saturn Echo, uno mi sembra sia 4127 e l'altro 4157, sono identici, cambiano soltanto la disposizione degli interruttori e uno c'ha il manopolone più grande e l'altro ce l'ha un po' più piccolo. Comunque Giovanni ti voglio fare, Giovanni, oggi ti voglio correggere, i Galaxy sono ancora in produzione. Tanto meglio. Questo significa che hanno ancora un certo valore. No, ma lo sapevano, io ero convinto anzi che erano fuori produzione già da tempo, anche perché poi avevano fatto il Galaxy di turno, quello dava roba di 100 watt al disco, però costava 1.300.000 franchi mi sembra, 1.400.000 circa, una cosa del genere, allora a quel tempo, adesso non lo so. Nella catalogo, anche perché prima la elettronica mandava quindi non lo fanno più, non lo mandano più di questi cataloghi. Allora, se lo vuoi magari se lo richiede, può essere che ce l'abbiano, non lo so, e che lo mandino, però non credo, perché sulla rivista dice pure tu che c'è scritto che il catalogo lo puoi aprire tramite computer, capito? Infatti qualcosa ne avevo scaricato io tempo fa, un po' di pagine, poi la seconda parte non l'ho più fatto e lo farò più in là, non lo so. Scappa da. Roba, quindi vado a faccio là. No, non vado, domani mattina. vado, ma non voglio rischiare, sto molto meglio rispetto a ieri, oggi, però non sono guarito del tutto, se no mi fulmineggia. Io sabato e domenica voglio uscire, non voglio essere buttato di nuovo in casa, sono due settimane che non esco il sabato e la domenica. E vabbè, questo figlio è un po' triste, magari d'estate che almeno si va a fare il giro al ghetto, cosa, ma domenica avevo già organizzato portare i bambini, oggi c'è il carnevale, i carri, eccetera, eccetera, ma le mani del tempo ci è previsto pioggia. Ma questa domenica? Ehi, è una cosa bella, ho degli amici, ci sono i carri allegorici, è una cosa molto bella, poi c'è da mangiare, frittelle, eccetera, eccetera. Oh, la di mattina? Non lo so, credo che sia la sera, normalmente lo fanno la sera, lui mi ha parlato di sera, non so se ci sia roba anche la mattina, ma è una cosa molto bella, stanno facendo delle macchine, c'ho degli amici che le hanno fatte, modificate, è una cosa un bel carina. E io mi sono affidato il tempo, c'era una 500, tutta scappottata, che c'era le scope attaccate alle ruote, praticamente era la macchina degli spazzini, no? Una limousine, l'ho preso due macchine, le hanno saldate una contro l'altra ed è venuta una macchina enorme, una limousine l'ho fatto. Chi sarà per altro? Non lo so, questo è il gomita che c'è vicino a me, e il figlio. Prima avevano preso una Y10 e avevano fatto un aereo tipo quei Boeing, solo che le hanno fatto le ali troppo grandi, io gli ho detto all'inizio, 6 metri erano le ali, gli ho detto guardate che non ci passate, io, sì, sono andati a fare le prove e non prendevano la culo, là hanno dovuto smontare tutto e l'hanno abbandonata. Ah, e lì c'era un volo. Aspetta se c'è il lavoro, gli ho detto mica 6 metri è troppo vaga, no ci passiamo, poi sono andati a vedere le misure e non mi bastava, allora hanno abbandonato il lavoro, hanno preso una Lancia Delta e non mi ricordo che altra macchina, le hanno saldate una con l'altra e hanno fatto una limousine. Poi c'è l'altro che dice che è bello, io non l'ho visto, un altro amico, la giungla dice che hanno fatto una cosa, un camion tutto allestito eccetera eccetera, gli ha detto questi di tempio, li hanno aiutati. Di solito vengono da Viareggio, poco poi per fare il carnevale estivo, e vengono da Viareggio gli sta. Sì, con il portatore è molto carino, sono andato qualche anno fa, ma ultimamente non l'hanno fatto con i carri. Come se ne ricordo lo fanno, dopo che saltano anni, poi lo rifanno, poi di nuovo si risveglia la storia. Come sono quattro che lo fanno, capito? Mi partecchia soltanto. Allora, a me era molto divertente, poi trovarla d'estate o un coso, una manifestazione del genere non è facile, cioè, ti ricordo anche il periodo di carnevale, anche se siamo d'estate, ma era veramente bello, l'avevamo visto, c'era musica, eccetera, eccetera. Poi un paio d'anni non l'ho più visto. Tanti. Buonasera, scusa un controllo. Dai, dagli tu che io non sono in condizione. Prova, innanzitutto buonasera, dovremmo da questa parte, con chi abbiamo l'onore di parlare? Ciao.